Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti, o benvenut, se vogliamo dirla usando la schwa, alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e lo sviluppo di un nuovo pensiero sul mondo concentrando l'attenzione sugli animali non umani, con una prospettiva quindi liberata dal tradizionale approccio antropocentrico. In questa puntata, che è la numero 623, parleremo di cultura e di filosofia, di pellicce e di corride messe al bando, di occhi puntati sull'orrore degli allevamenti. Come al solito, la puntata sarà arricchita da una ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, mentre la colonna sonora è affidata alle abili cure di Gianluca Masala. Cominciamo da una notizia importante per il mondo animalista, attesa da molti anni. Con il sì alla legge di bilancio, negli ultimi giorni del 2021, in Italia sono da quest'anno vietati gli allevamenti di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie che vengano fatti riprodurre in cattività e uccisi con lo scopo di ricavarne pellicce. Grazie a questa norma, un emendamento che ha avuto come prima firmataria la senatrice Loredana De Petris, l'Italia si unisce alla ventina di paesi europei che avevano già stabilito il divieto di allevare visoni e altri animali per la produzione di pellicce. L'approvazione dell'emendamento è arrivata al termine di una lunga campagna in favore della chiusura definitiva degli allevamenti, portata avanti da tempo da vari enti e associazioni. La LAV, Lega Antivivisezione, la maggiore organizzazione animalista italiana, ha commentato la notizia con Simone Pavesi, responsabile dell'area Moda Animal Free. L'Italia ora è un paese più civile, ha detto Pavesi. Abbiamo messo la parola fine a un'industria crudele, anacronistica, ingiustificabile, che non ha più motivo di esistere in una società civile dove il valore di rispetto per gli animali, in quanto esseri senzienti, è sempre più diffuso e radicato. In Italia esistevano ancora 5 allevamenti di visoni, distribuiti nelle province di Brescia, Cremona, Forlì Cesena, Ravenna, L'Aquila, strutture nelle quali fino al 2020 si uccidevano ogni anno circa 60.000 animali. I 7.039 visoni ancora presenti in queste aziende saranno messi in salvo in collaborazione con associazioni animaliste. La norma prevede indennizi fino a 3 milioni per la chiusura e lo smantellamento di ciascun allevamento, nonché 3 milioni complessivi per la loro riconversione in impianti agrivoltaici per la produzione di energia solare. Insomma, il 2022 comincia con una buona notizia, che potrebbe fare scuola, visto che il modello di chiusura con indennizi e riconversione è il più credibile in un'ottica di trasformazione del sistema produttivo, a cominciare dagli allevamenti intensivi. Strutture ben più numerose e ben più pesanti economicamente degli allevamenti di animali da pelliccia, ma ormai nel mirino non solo del mondo animalista, ma anche degli autentici ecologisti e di chiunque abbia voglia di impegnarsi nella dura lotta in corso per la giustizia climatica. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, looking me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, I shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to. A proposito di allevamenti, merita una segnalazione un lungo articolo dedicato a questo tema dal giornale online Il Post, che si domanda fin dal titolo: guarderemo con orrore a come trattiamo gli animali di cui ci nutriamo? E nel sottotitolo: conosciamo e per lo più accettiamo il funzionamento degli allevamenti intensivi, come le società passate facevano con pratiche che oggi giudichiamo disumane. L'articolo è una sorta di parafrasi di un altro articolo uscito sul New York Times, firmato da Ezra Klein, ex giornalista del Washington Post e cofondatore del sito Vox, il quale sostiene che il modo in cui trattiamo oggi gli animali d'allevamento sarà visto un giorno come un difetto morale distintivo della nostra epoca. Klein nell'articolo esamina l'attuale sistema di produzione della carne e le sue origini con un approccio tecnico-storico, prestando molta attenzione, nella parte finale del testo, alla cosiddetta carne sintetica, ottenuta in laboratorio, riproducendo consistenza e gusto del prodotto finale, ma senza allevare e uccidere animali. Per Klein, scrive il Post, i progressi nel campo della sostituzione della carne dovrebbero essere parte di una strategia collettiva, un obiettivo della società, piuttosto che un'iniziativa lasciata al capitale privato. In questo settore, sostiene, esiste troppo poca scienza di base e troppi progressi sono brevettati e protetti. In ogni caso, secondo Klein, grazie al lavoro di associazioni e gruppi impegnati contro il maltrattamento degli animali, è quantomeno possibile immaginare oggi come la crudeltà contro gli animali potrebbe un giorno finire. Klein conclude così: forse stiamo vivendo in quell'intervallo fra il tempo in cui è diventato possibile trattare gli animali senzienti come input industriali e il tempo in cui diventerà inutile o forse indecente farlo, perché saremo in grado di coltivare o riprodurre la maggior parte della carne con meno coinvolgimento animale, e i maltrattamenti nei confronti degli animali saranno più facili da esecrare. Vedremo se la carne sintetica, come sembra auspicare Klein, decollerà davvero, o se, come noi preferiremmo, il superamento degli allevamenti intensivi avverrà all'interno di una trasformazione morale, sociale, politica dell'intera società. The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, secretly wishing for rain, sipping coke and playing games. September's feels here again. September's here again. Restiamo sul terreno della cultura e della riflessione sulla posizione della nostra specie sul pianeta e rispetto agli altri esseri viventi. Uno snodo cruciale, anche di tipo politico, per il nostro tempo, citando un altro intervento, firmato stavolta da Carla Benedetti, critica letteraria, autrice, recentemente, di un libro molto originale e acuto, La letteratura ci salverà dall'estinzione, pubblicato nei mesi scorsi dall'editore Einaudi. In un articolo uscito il 4 gennaio sul quotidiano Domani, Benedetti riflette sul caso dei filosofi Agamben e Cacciari e delle loro posizioni sulle questioni dell'emergenza sanitaria, vista dai due sostanzialmente come un ennesimo caso di stato di eccezione applicato a fini di potere e di controllo. Benedetti, che non condivide queste posizioni di Agamben e Cacciari, allarga lo sguardo e riflette sull'ottica adottata non solo da questi due filosofi, ma più in generale da gran parte della filosofia contemporanea, che è propensa, scrive, a osservare esclusivamente l'uomo in società, cioè all'interno delle relazioni che l'uomo stesso ha creato, relazioni quindi sociali, culturali, economiche, di potere. Benedetti chiama allora in causa Giacomo Leopardi, portatore a suo avviso di un punto di vista più largo e più aperto, con l'uomo in natura distinto dall'uomo in società. Nel pensiero di Leopardi, scrive Benedetti, la parte essenzialissima della natura, da cui non si può fare astrazione, è quel congegno complesso, stritolante e misterioso poiché non se ne riesce a comprendere il fine, in cui è preso ogni vivente, sia umano che non umano. Questo scarto dall'antropocentrismo, anticipato da Leopardi, è il passaggio al quale i filosofi, ma anche tutti noi, saremmo chiamati nel nostro tempo, segnato non solo dall'emergenza pandemica, ma dall'incombente sesta estinzione di massa della nostra specie. Evitarla, o almeno ritardarla, rendendo al contempo la vita sul pianeta più vivibile e più giusta, è una sfida che può essere affrontata, suggerisce Carla Benedetti con Leopardi, solo abbandonando la pretesa dell'egemonia umana sulle forze naturali e ricollocando quindi la nostra specie nell'ambito della natura e degli esseri viventi, a fianco degli altri e non sopra o contro gli altri. Walking in the pouring rain, walking with Jesus and Jane. Jane was in a turtleneck, I was much happier then. Let me count the times. Con Francesco Panier proseguiamo oggi la preziosa serie di interventi che abbiamo denominato Lessico dell'Antropocene, una rubrica che voce per voce ci aiuta a comprendere i punti chiave della complessa emergenza ecologica e climatica che stiamo vivendo e della lotta per la giustizia climatica nella quale ci sentiamo impegnati. Era il 1973 quando Stanley Cohen ed Herbert Boyer, due ricercatori statunitensi, scoprirono che attraverso le nuove tecniche di biologia molecolare era possibile trasferire materiale genetico da un organismo a un altro. Quell'anno venne abbattuta per la prima volta la barriera tra specie, creando il primo organismo geneticamente modificato, che ancora oggi rappresenta una delle più discutibili e discusse scoperte della scienza. A quasi mezzo secolo di distanza, gli organismi geneticamente modificati hanno trovato applicazioni in agricoltura, allevamento e medicina, ma le biotecnologie che li realizzano continuano ad alimentare controversie. Con il termine organismo geneticamente modificato, o OGM, si intende un organismo in cui parte del DNA sia stato manipolato attraverso tecniche di ingegneria genetica. Il DNA è quel materiale biologico presente in tutti gli organismi viventi, contiene le informazioni che si trasferiscono da una generazione all'altra e che consentono lo sviluppo e il funzionamento di ogni individuo. L'umanità ha interagito con il DNA delle piante e degli animali per millenni, attraverso gli incroci e le successive selezioni. Pensiamo ai contadini che selezionavano i semi e ripiantavano solo quelli delle piante più produttive o resistenti agli eventi climatici. Si trattava però di una modificazione in base all'esperienza, operata osservando caratteristiche visibili e seguendo i tempi della natura. Con l'avvento dell'ingegneria genetica tutto questo processo viene ribaltato. Sulla base di supposizioni si può progettare la modifica del DNA. Questo può avvenire spegnendo le caratteristiche indesiderate di un organismo, come ad esempio un gene potenzialmente responsabile di una malattia, oppure prelevando le caratteristiche desiderate da un altro, per impiantarla nel ricevente, per esempio il gene responsabile della resistenza a un fungo dentro una pianta che non lo possiede. E lo si può fare non solo con specie compatibili, come due varietà di grano ad esempio, ma anche tra specie diverse, perfino un animale e un vegetale. Ecco cosa significa abbattere la barriera tra i regni. Con questa capacità di intervento, l'ingegneria genetica prometteva di accelerare enormemente il miglioramento dei prodotti agricoli, mettendo fine anche alla fame nel mondo. Prometteva perfino di sviluppare animali più produttivi e farmaci più innovativi contro le malattie degenerative. L'euforia iniziale che ha visto i biotecnologi diventare figure molto ricercate dalle imprese e dai centri di ricerca si è scontrata però con la realtà. La fame nel mondo continua a crescere, come ci dice la FAO, le colture OGM sono relativamente poco diffuse e le persone non le vedono di buon occhio. Anche l'utilizzo in medicina è parecchio dibattuto, anche se in molte terapie oggi si utilizza l'ingegneria genetica e il matrimonio tra governi, imprese e centri di ricerca non è mai stato tanto felice. Tuttavia, nessuno è stato capace ancora di fugare le preoccupazioni di molti scienziati, movimenti sociali ed ecologisti circa l'accuratezza di queste tecniche, che non riescono ad evitare numerose modifiche del DNA indesiderate o impreviste, dagli effetti largamente sconosciuti e poco studiati. E poi c'è il problema dei brevetti. I prodotti di queste biotecnologie, così come le tecniche stesse, sono sempre di qualcuno, che ne può impedire l'uso a chi non paga. Così gli OGM e le biotecnologie che li hanno prodotti sembrano più strumenti per intensificare il controllo economico e politico su tutte le forme viventi che non la bacchetta magica con cui mettere fine a tutti i nostri problemi. Ecco perché continuare a metterne in discussione la logica e gli obiettivi può aiutarci ad aprire un dibattito sul futuro che ci aspetta e su quello che vogliamo. I see wind of night begun, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of a bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. Fra i numerosi cambiamenti normativi che riguardano la relazione della società contemporanea con gli animali, va segnalata l'onda abolizionista che sale rispetto alla pratica delle corride, una tradizione di alcuni paesi latini, a scapito dei tori, trattati con impressionante ferocia. Dopo le limitazioni e i divieti introdotti negli anni scorsi in Francia, Spagna e Portogallo, ora il tema è di attualità anche in Messico, dove l'amministrazione della gigantesca capitale, Città del Messico, ha proposto di introdurre il divieto per le corride. La Plaza Monumental de México è l'arena per corride più grande del mondo e una delle 216 attualmente attive nel paese, dove si tengono circa 800 eventi all'anno. Chi propone il divieto, una coalizione che include alcuni amministratori della metropoli, sostiene di voler mettere fine a una forma di tortura nei confronti degli animali anacronistica e barbarica. La nuova legge vieterebbe nell'area della città spettacoli pubblici in cui tori, manzi, vitelli vengano maltrattati, torturati o uccisi e comporterebbe multe fino all'equivalente di circa 210.000 euro per chiunque organizzi, diffonda o partecipi a corride di tori o spettacoli simili che implichino il maltrattamento degli animali. Al momento le corride sono già state vietate in singole città e in alcuni stati messicani, fra cui Guerrero, Sonora e Coahuila. Altri stati hanno deciso invece di dichiarare la tauromachia un patrimonio culturale immateriale, rifiutando la sua abolizione e anzi forzando gli investimenti e la promozione di questi eventi. Dietro la questione etica, ovviamente, c'è anche un conflitto economico enorme, visto il fatturato dell'universo corride. Vedremo se e come la proposta di vietare le corride a Città del Messico farà strada. We'll be right back. Messico e alla possibilità che la tauromachia sia presto qualificata come una pratica obsoleta e inaccettabile, è dedicata la ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore, vi ricordiamo, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Un volume corposo ma molto economico nel quale è possibile esplorare il ricchissimo universo della cucina non violenta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta che vi racconto oggi arriva dritta dritta dal Messico ed è quella delle gorditas, golosissime focaccine di mais da farcire a piacere, semplici e veloci che non guasta mai. Gli ingredienti per 4 persone per le gorditas sono 200 g di masa de maiz, farina di mais adatta per le tortillas, 300 ml di acqua a temperatura ambiente, sale e pepe e un goccio di olio extravergine di oliva. In una bowl mescolate la farina di mais con un pizzico di sale. Impastate aggiungendo l'acqua poco alla volta fino ad ottenere un impasto morbido e compatto che si stacchi bene dalle mani. Dividete l'impasto in 8 palline, mentre fate riscaldare una padella antiaderente leggermente spennellata di olio extravergine. Schiacciate ogni pallina fra 2 fogli di carta forno o se ne disponete nell'apposita pressa fino ad ottenere dei dischi di circa 0,5 cm di spessore. Fate cuocere le gorditas nella padella 2 minuti per ogni lato. Man mano che saranno cotte adagiatele su un piatto e copritele con un panno pulito e asciutto. Mentre sono ancora calde, praticate un taglio formando una tasca. Farcite le gorditas a piacere ancora calde. Sono ottime con fagioli neri stufati, peperoni e salsa piccante. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Francesca De Matteis, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesca Uppanier, Valentina Reggioli e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.